si passerà. L'orgoglio diventa un'arma, negli occhi dei bottegai si leva l'urlo di Parma. Non ci avete mai. L'oltre torrente non si arrende, stringe i pugni e spara, e sanguinando martedì 16 febbraio, CSOA, ex SNIA e Radio Onda Rossa presentano Martedì Grasso! Perché è martedì grasso, non l'avevo detto. Taratara, sala Revival 80-90-0 con DJ Mela e Take It Easy. Sala B, reggae, salsa, cumbia, hip hop latino con Radio Torre e Juas Brada. Las Comares del Ritmo. Serata martedì grasso, come carnevale alla SNIA, via Prenestina 173 a Roma, vicino al Largo Prenesse, al Pigneto. Martedì 16 febbraio, CSOA, ex SNIA e Radio Onda Rossa presentano Martedì Grasso, perché è martedì grasso, non l'avevo detto. Un moscoidavo, un moscoidavo, no. musica e cerere c'è le vita, ce la savo. Non mo squinta, quante volte ci pensavo. Io ci ritenì che me mugliere che chianciava. L'urto che sentiva in mano, su di essa, l'anima chiamava. E una guardia infame che amarrezza senza pietà. Nessun perdono da parte dello Stato per chi ha avuto miseria come il dono. Tu ne sgrida, curre fuette, io mi scoraggia così cavo la suete. Un mo meritava, no, ma capito a mia. Menna d'ogni uguale, rincia macchina la polizia. Ora che diventavo una fotografia, nell'album meritente che ora è tua che così sia. Prima comincio, prima ne esci gioco, 24 ore roba, bruciava rincia un poco senza aria. Senza sangue, a disagio come acciuro immenso fango. E me pace, scusi tutta vita, ne ha di 5 mece quace, se. E madre qua i dorini, quando era nico, mezza sciata, sempre un stesso amico. In scuro ne moriva, e coi non ne calava. Me pace che cancia, e me pace un ciamagliava. E mi disse, figlio mio, di rimuovere, te caccia ne fatta assai. Fatica per crescere, te aiutami tua mia. Oramai sei grande, uvire come si diventa o si ricane. Dove è finita la mia libertà? Faccio fatica, eppure è una realtà. Dove è finita la mia libertà? Imprigionata dalla legalità. Dove è finita la mia libertà? Faccio fatica, eppure è una realtà. Dove è finita la mia libertà? Imprigionata dalla legalità. Ancora non capivo buono, no, dice che siamo tutti stessi, tutti stessi sotto un suono. Perché c'è sempre qualcuno che s'assetta e comanda. E tu ne c'è integrato, c'è un governo che inganna. E noi c'è che chianciamo e ne lamentiamo. Noi c'è che ne sciagliamo e che alla fine ne accollamo. Mascole, femme, ne vanne, pure piccinette. Ne faceva guida, fra noi c'è poveriette. Ma non faccia una divisa, perché ti piace un fierro. Mi piace pure a me, ma meglio la gioca a spillo. Quando ho bisogno, me meglio compagno. Chi tu canna rossa e canna fa nittare sangue. Bruzzanze, 500 euro via casso. C'è figli, mezzo travaglio, un capomascio. Chi tu capisce e pisce, su sacrifici ne riuna. Nei quartieri se campa, cauce e mozza una. E pensa a luce e duna, arancia a chile. Per mensura rire, per la semana chiance e fa bile. Cannile, a dare luce, a cunave pace, senza voce. Scippatura cosa più luce. Dove è finita la mia libertà? Faccio fatica, eppure è una realtà. Dove è finita la mia libertà? Imprigionata dalla legalità. Dove è finita la mia libertà? Faccio fatica, eppure è una realtà. Dove è finita la mia libertà? Imprigionata dalla legalità. Dove è finita la mia libertà? Faccio fatica, eppure è una realtà. We'll be right back. criticare quando dicono arrestare a chi tu spacciavo, perché spacciavo cosa? Perché non c'era niente, non aveva come cambiarsi la famiglia. E se fa chi? La faccia lui. Radio Andarossa, the alternative station in Rome, 87.9 FM. فكروا حطموا املنا شتتوا اهلنا دمروا بيوتنا ما خلوا فيها باب دخل علينا كثير يهود بس ضلينا احنا اسود من صمود لصمود اخرينا راح نعود سموه البلد الموعود فلسطين المقصود كلنا عيشي بالهيزي مش عيشي هيلنا سنين نستنى حق العودة يجي لا بيت عطا ولا بتلتف عالجل بريد وذكرين الوطن راجع مع مرور الزمن مش نسيم مش نسيم مش نسيم كلنا عيشي بالهيزي مش عيشي هيلنا سنين نستنى حق العودة يجي طابنا بتلتف عالجل بريد وذكرين الوطن راجع مع مرور الزمن مش نسيم مش نسيم مش نسيم عن حق العودة ما في عودة زدت راجع رح أمت للأبد هاي هي بداية الثورة خروج من الحفرة لازم خلي الأمل الحل رح يجي بكرة خلوا الرصة فوق مرفوع الصوت مسموع بدناش دموع بدنا نضال في الشجلال إيد بإيد من هد جبال بس سؤال هل كلام بجيب سلام ولا سلاح بجيب سلام أنا بقول لا خد مثال أحمد من إسلام المخيم رفض راح عدهم صار شهيد شهد الحل الواحد كله مع الوعيد فاحنا إذا بقينا بسكوت القصة راح يزيد يلا نشوف من بيستفيد من كل هالظلم والظلام مع الأيام وداعا أيتها الحرب وداعا أيها السلام سلام سلام سلام كلنا عيشي بالهيشي مش عيشي الناس نستنى حق العودة يجي لا بيت عطا ولا متلتف عالجل بريد وذكرين الوطن راجع مع مرور الزمن مش نسيم مش نسيم مش نسيم كلنا عيشي بالهيشي مش عيشي الناس نستنى حق العودة يجي لا بيت عطا ولا متلتف عالجل بريد وذكرين الوطن راجع مع مرور الزمن مش نسيم مش نسيم مش نسيم

fête à qui l'année. La tour la France, et n'espère pas en la finance. Pour habiter au pitchoum pay, c'est pas ici vous patina. La lei pegunga et giù de festa, c'est maxia vous regina. Brûlant le pol et coupe testa, et coupe testa. Fuego lo sangue non resta lo bui, fuego sensi che aves la gorgio pleno, fuego buciega de nuestro cudeno. Sono più, sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere la storia. Dodici e 15 minuti primi, martedì 16 febbraio 2010. Con una puntualità decisamente inusitata per questa trasmissione andiamo ad iniziare la puntata odierna di Maldestra, l'osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. E ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non quella che vi lasciamo ascoltare mentre finiamo gli ultimi preparativi per la trasmissione è, come di consueto, la sigla di Maldestra, La memoria dei senza sicura. Quindi ancora qualche istante di musica e poi andiamo a cominciare. Sono più, sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere la storia. Per portarmi dove non lo so, su questo treno vecchio come, come il silenzio, come il dolore. E ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non morire. Ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire. Per non tornare tu mi parli, ma io non ti sento più. E tu mi guardi, ma io non ti vedo più. Non ho più figlio in questo dolore, non ho più una donna che mi possa aspettare, non ho più una terra su cui crescere e andare, sono solo un numero da poter bruciare. Mi strapperanno la vita di dosso, si perderà nel cielo con il mio destino. Con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso. Ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio, non è importante, non fa poi così male. Che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare. Ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che in cui viva e non sia mai cancellato. Parlo come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più. E allora alle 12.20 andiamo evidentemente ad iniziare, siamo riusciti a recuperare quella puntualità con che appunto annunciavamo in apertura, siamo riusciti a recuperarci i nostri soliti 5 minuti di ritardo. Andiamo ad iniziare così questa puntata di Maldestra, in cui parleremo non soltanto di come avevamo annunciato anche prima, di esteri, nello specifico di Germania e Dresda, ma anche della nostra città e della nostra regione. Ne cominciamo a parlare con una delle voci più affezionate di questa trasmissione, ovvero il nostro redattore telefonico, quest'oggi promosso niente meno che in apertura, invece che sacrificato negli ultimi 10 minuti di trasmissione. Ci senti? Evidentemente non ci sente, o quantomeno noi non sentiamo. Ecco, sì, adesso ti sentiamo. Ok. Allora, senti, per una volta noi con te non parliamo di esteri come al solito, ma parliamo invece di casa nostra. Parliamo di regionali alle porte, sicuramente non per suggerire questo o quel candidato, ovviamente da questi microfoni, ma per andare a raccontare, intanto a raccontare un po' che cos'è la candidatura che appunto la PD esprime per la Regione Lazio, che è Renata Polverini. Quindi in realtà ovviamente non tanto sulla la persona di Renata Polverini, più che altro andremo a raccontare che cos'è che esprime questa candidatura, che cos'è la cosiddetta destra finiana, e se esiste, immagino che sarà una delle domande che ci porremo, se esiste veramente poi un'opzione di quel tipo, del tipo quella che ormai appunto sembra la destra più in qualche modo meno becera e più liberal, quella che segue l'ondata di Fini, insomma, se esiste questo tipo di opzione al di là delle dichiarazioni che poi trovano la prima pagina sui giornali di volta in volta, no? Sì, diciamo che si potrebbe partire proprio da questo elemento, nel senso che sono mesi che le cronache, diciamo, della stampa ci spiegano che sta accadendo qualcosa di sostanzialmente rivoluzionario a destra, cioè che si sta formando un'area politica sganciata, diciamo, dal berlusconismo, sganciata dalla nostalgia e dai contatti con il mondo neofascista, e che quest'area di nuova destra repubblicana, che guarderebbe in particolare a modelli come Sarkozy in giro per l'Europa, e che è pronta, diciamo, a talvolta anche a sfidare la sinistra su temi come le coppie di fatto, l'inseminazione artificiale, i diritti delle seconde generazioni di immigrati, diciamo, fa riferimento al presidente della Camera Gianfranco Fini. Allora, al di là del quanto ci sia di vero e quanto ci sia di falso in questo racconto, diciamo, mediatico della nuova figura di Fini che è stato fatto, da Maldestra più volte, insomma, abbiamo cercato di riportare un po' il confronto e la discussione su temi concreti, cioè sulle scelte fatte, ma diciamo al di là di questo in qualche modo ci è offerta oggi una sorta di occasione importante per verificare se al di là di quello che appunto spesso, diciamo, i giornali, la politica rappresentano un piccolo cortocircuito che parla di sé anche quando parla d'altro, c'è molta voglia di interloquire, che so, da parte degli esponenti del centro-sinistra con una destra che gli assomigli, che sia, come dire, che possa stare a tavola, insomma, no? Che si possa invitare la domenica a mangiare, tanto per usare una rappresentazione fotografica, cioè c'è l'idea, insomma, che non ci siano soltanto degli schifosi, che questo essere meno schifosi degli avversari forse ci renda anche a noi, parlo del centro-sinistra, un tantino più appetibili per qualcuno, insomma, quello è il giochino. E che cosa viene fuori? Viene fuori che la prima prova sociale, qualcuno lo ha scritto in questi giorni anche sui giornali, anzi più di qualcuno, parecchi giornali lo hanno scritto, questa prima prova che è incarnata dalla figura di Renata Polverini, di lei si è detto sì tutto, sindacalista dell'UGL, una donna che i lavoratori potrebbero votare, una figura che in quanto rappresentante del mondo del lavoro potrebbe strappare consensi a sinistra, bla bla bla, beh, insomma, questa signora che ha detto tante cose, ha detto che era contro la globalizzazione, ha detto che lei si sente vicina al socialismo, certo il socialismo nazionale è quello a cui si sentiva vicino anche Benito Mussolini, ma insomma quella sarebbe un'altra cosa, cioè, come dire, lei si sente vicina a una storia sociale della destra che però da noi nel nostro paese, ma sostanzialmente in tutto il mondo, ha sempre incarnato anche la versione più dura, la versione più radicale. Negli anni 20 e 30, diciamo, l'idea sociale delle destre europee si è incarnata fortemente con l'idea razziale, tanto per dirne una, no? C'era un'idea di stato sociale, ma doveva essere riservato soltanto a seconda dei casi, ai bianchi, ai non ebrei, eccetera, eccetera. Ma infatti la figura stessa della Polverini, poi al di là del fatto che comunque è appunto un esponente di quest'ala finiana che stiamo andando a descrivere, poi in realtà contiene anche degli elementi, una figura anche complessa che contiene degli elementi di populismo anche molto forti, no? Nel senso, non soltanto per appunto, come ricordavi te, che era figlia appunto di sindacalista, lei stessa sindacalista, figlia di una commessa, che viene dalla CISNAL e prima ancora che dall'UGL, e che comunque anche il suo rapporto col mondo del lavoro comunque è un in qualche modo è lo specchio di quell'ottica, se non corporativista, comunque che rimanda una certa idea di non solo di lavoro ma anche di società, no? Quindi in realtà parliamo di una figura appunto complessa, che non è descrivibile così come appunto soltanto quella che ruba i voti alla sinistra perché sta nel mondo del lavoro, insomma. Sì, diciamo che, insomma, per riassumere molto la cosa, si può dire che la CISNAL prima e l'UGL poi, cioè i due sindacati che sono nati in stretto rapporto con la MSI prima e con Alleanza Nazionale poi, hanno mantenuto, se così diciamo si può definire, molto più accesa e forte la fiamma che c'era nella cultura politica del movimento sociale, che si è un tantino attenuata dentro Alleanza Nazionale, cioè quell'idea di Stato sociale che fonda le proprie radici esattamente nella cultura del fascismo del ventennio e dell'epilogo sanguinoso nella Repubblica Sociale Italiana, che certo metteva in campo una politica sociale da parte della destra, del fascismo storico, ma che ovviamente l'accompagnava allo Stato totalitario, alle leggi razziali, alla repressione, in qualche modo offriva garanzie ai settori più deboli in uno Stato che era però privato di qualunque democrazia e di qualunque possibilità di autodeterminazione dei cittadini, insomma. Quindi questa è, diciamo, di fondo, grattando la cultura propria al sindacalismo nazionale. Il punto è che però non basta questo, cioè questo sembrerebbe, diciamo, il smascherare un po' quello che si è detto fin qui, Fini, Polverini, la novità, la sindacalista che piace appunto alla sinistra. Questa cosa, diciamo, mi è rimasta lì, insomma, non riesco a superarla. Perché poi c'è la campagna elettorale. Allora, la campagna elettorale è cominciata da circa un mesetto a Roma, si vota alla fine di marzo, e che cosa è successo? È successo che, come neve al sole, questa candidata lungamente vezzeggiata dai media, invitata in televisione, sui giornali, sempre un po' a fare da contraltare ai Berlusconis, no? agli esponenti del PDL più legati al Presidente del Consiglio, quelli francamente poco presentabili, beh, in qualche modo ha dimostrato di essere esattamente una parte, di far parte dello stesso circo, diciamo, della coalizione del PDL. Ha fatto una serie di passi che indicano con evidenza come, lo diciamo subito così non c'è nemmeno la suspense per chi ci ascolta, come il progetto finiano di presentare, costruire una destra nuova sganciata da Berlusconi, altro non sia che un tentativo legittimo da parte del Presidente della Camera, ovviamente, di proporre la propria candidatura, proporre un laboratorio culturale che possa, una volta caduto eventualmente Berlusconi, tenere insieme o cercare di tenere insieme la baracca del PDL, ma che si tratti di un'alternativa o che si tratti di un segno politico diverso, beh, ce n'è molto, ce ne passa parecchio. E la campagna elettorale, questo mese di campagna elettorale, sta lì a indicare proprio questo. Che cosa è accaduto? Infatti è accaduto intanto che Polverini, che aveva detto noi non faremo nessun polo nero, nessun accordo con l'estrema destra, ha sostanzialmente fatto accordi con tutti, con due modalità: la destra di Storace, qualcuno se lo ricorderà, Berlusconi prima di essere colpito dalla statuetta a dicembre a Milano stava proprio dicendo faremo gli accordi con la destra a livello nazionale, faremo accordi con tutti, diciamo, quelli che vorranno stare con noi sostanzialmente. E praticamente questo accordo parte proprio nella regione Lazio, con una prima candidatura, quella di Adriano Tilger da parte della destra, poi ritirata perché Tilger, uomo dello stragismo, uomo di delle chiaie, con un passato imbarazzante, come dire, era forse un po' troppo. Tilger invita manda una lettera ai suoi camerati della destra, del partito guidato da Storace, e dice: vabbè, io faccio un passo indietro, basta che in qualche modo le nostre idee siano rappresentate nella coalizione. La coalizione è quella guidata da Renata Polverini, che qualche settimana fa in un cinema del quartiere Aurelio si è beccata, diciamo, la classica, la classica, il classica ovazione, diciamo, che si fa da quelle parti, con tanto di saluti romani, sventolio di tricolori, quant'altro, e con appunto l'appoggio di questa parte della, dell'estrema destra romana, che anche sui siti, anche sulle proprie, diciamo, mailing list, diciamo, fa un gran baccano intorno alla candidatura della Polverini. Ma le cose non finiscono qui, perché cos'altro succede? Succede che anche, diciamo, quei ragazzotti di Casa Pound, quelli, diciamo, che più antagonisti e più alternativi di così non si può, passano solo poche giornate e si schierano apertamente con la Polverini, dicendo: noi vogliamo cominciare a pesare nella politica cittadina, siamo un'esperienza presente, pensiamo che magari un po' ci daranno retta, oppure magari non ci fileranno molto, ma pensiamo che questa volta sia il caso di scendere in campo. Peccato che loro siano praticamente scesi in campo ad ogni elezione, in ogni circostanza, o da soli o con altri, sempre in qualche modo con una capacità di mettere immediatamente sul piano elettorale la loro presenza nella città. E lo fanno indicando non soltanto la necessità per i loro militanti, e il bello è che diciamo, portavoce di Casa Pound parla anche a nome dei ragazzi di blocco studentesco, che sicuramente, dice, seguiranno queste indicazioni. Quindi noi pensavamo di avere a che fare con un movimento, invece evidentemente abbiamo a che fare con un partito che ha i propri iscritti e le proprie tessere, tant'è che dà indicazioni centralmente. Il politburo di Casa Pound ha detto per chi dovete votare. Vabbè, questo è anche un altro elemento. Sì, d'altro, così come elemento anche un po' di divertisman, si potrebbe dire che loro queste scelte, anche i militanti appunto con la tessera di partito, queste scelte elettorali di solito non le scoprono neanche dopo una discussione, ma le scoprono perché le trovano scritte sui forum loro stessi, quindi vabbè. Sì, questo, diciamo, la dice lunga. Esatto. Sulla l'organizzazione, no? Vabbè. E questo, diciamo, è l'altro, appunto, dicevo, il portavoce di Casa Pound dà anche l'indicazione di due candidati. Uno dei due candidati è Malcotti, ex Alleanza Nazionale, che è uno di quelli che nel passaggio tra Alleanza, ex Giovane Rautiano, Sodale di Alemanno, e di tutto un pezzo di quelli che oggi scrivono sul Secolo d'Italia, che praticamente si è occupato di volontariato, di associazionismo, è uno di quelli cresciuti nell'MSI Rautiano degli anni 80, che poi, insomma, ha fatto una certa carriera ed è appunto un dentro il PDL, quindi, diciamo, siamo proprio nella filiera giusta, insomma, no? Cioè, stiamo parlando di votare un candidato che ha a che fare con quel mondo, e poi vedremo perché è interessante dirlo ora, con quel mondo della destra nazionale romana, che si è fatto garante anche di storie pregresse, della storia del radicalismo di destra, eccetera, eccetera, cioè la biografia più o meno dello stesso Gianni Alemanno. Terzo elemento con cui si chiude, diciamo, questo primo quadro: due giorni fa arriva anche l'appoggio di, credo si chiami, Fabbatani Schiuma, che è stato consigliere comunale per la destra di Storace, che evidentemente ha lasciato Storace per aderire al movimento di Daniela Santanchè, la quale, lasciata la destra, sta rientrando nel PDL. Ebbene, anche loro diciamo, profili di netto antagonismo politico e sociale nella città di Roma, insomma, cioè stiamo sempre parlando dei sodali dell'ex presidente della regione, quello che ha lasciato un buco di 10 miliardi nella sanità, Francesco Storace, sosterranno Renata Polverini. Quindi praticamente la gran parte della destra radicale, pare, diciamo, che in un primo momento Fabio Rampelli, dichiarazioni dei giornali e delle agenzie, quindi uno dei quadri, insomma, storici di AN a Roma, uno che conta nell'organizzazione del partito in questa città e nel Lazio, abbia detto che c'era disponibilità di fare l'accordo anche con la Fiamma Tricolore. Forse il problema è che i numeri talmente esigui della Fiamma Tricolore esponevano troppo la candidata Polverini per quello che invece poteva essere un esito elettorale, quindi quell'accordo non si farà. Però, diciamo, tre quarti della destra radicale romana finiscono sotto l'ombrello di Renata Polverini, e questo è il primo elemento. Il secondo elemento che chiarisce, diciamo, di che cosa stiamo parlando, sui giornali questo si è letto moltissimo, quindi forse qualcuno lo avrà anche visto di chi ci ascolta, è il fatto che Renata Polverini ha nel proprio comitato elettorale Claudio Fazzone, che è il factotum prima di Forza Italia e oggi del PDL in quel di Latina, e che è diventato celebre anche televisivamente. Qualcuno avrà visto le puntate di magari di Anno Zero dedicate a questo, perché è, diciamo, il politico, così con la P maiuscola, che sta dietro la vicenda di fondi, un comune che doveva essere sciolto per infiltrazioni mafiose. La destra ha fatto i salti mortali perché questo non avvenisse, per portarlo con un commissariamento fino alle elezioni di marzo. Si voterà anche lì per il comune oltre che per le regionali, ed è un comune in cui c'è praticamente un mercato ortofrutticolo tra i più importanti d'Europa, super infiltrato da vicende di criminalità organizzata, super indagini della magistratura che indicano esplicitamente come ci sia tutto un crogiolo di relazioni tra malaffare, economia e politica, e che chi lì diciamo è forte politicamente e ovviamente garantisce questo tipo di connubio. Solo per dire, questa persona, questo fazzone senatore del PDL, pare che sia l'uomo dalle 50.000 preferenze. Bene, lui ha detto che il comune non andava sciolto, ha chiesto al Presidente del Consiglio, ha chiesto al Consiglio dei Ministri di non intervenire, e questo però perlomeno gli ha fruttato una campagna stampa abbastanza netta, perché insomma, come dire, siamo di fronte al classico modello, diciamo, della politica corrotta italiana: la mafia non esiste sostanzialmente. Bene, Fazzone è uno degli importanti uomini nella provincia latina della campagna elettorale della Polverini. Se a questo, e concludo, aggiungiamo che certo qualcuno si sarà accorto, Renata Polverini ha detto sono favorevole alle coppie di fatto, peccato che all'inaugurazione della sua campagna elettorale avesse detto il contrario. La città è piena di manifesti che dicono sostegno alle famiglie, e lei ha spiegato a più riprese che famiglie sono quelle fatte da un uomo o da una donna, quali altre ne esistono, avrebbe chiesto, diciamo, ai giornalisti. Si è fatta benedire il comitato elettorale da un decano della Pontificia Università, e che in qualche modo i suoi rapporti con la Curia Romana sono stati ribaditi a più riprese. E quindi che cosa accade? Che ancora una volta tutta questa fuffa, diciamo, della novità della destra, alla prova concreta del rapporto sociale, cioè chi voterebbe la proposta di una nuova destra italiana e chi la sosterrebbe dal punto di vista organizzativo, chi la voterebbe non lo sappiamo ancora, speriamo in pochi. Quello che sicuramente sappiamo è che la base organizzativa e politica è esattamente quella della vecchia destra romana, clericale, neofascista, con dentro magari figure come quella di Tilgar, con un buon rapporto con la Curia e con, magari lontano dai settori della capitale, ma nelle province, nelle altre province del Lazio, una visibilità forte di personaggi a dir poco ambigui. Questo è tutto il nuovo della destra incarnata dalla candidata del PDL. Di nuovo, diciamo, mi sembra ci sia molto poco. Guarda, noi ovviamente, oltre a concordare con te, ti ringraziamo per il quadro assolutamente esauriente e sintetico che sei riuscito a farci. Noi a questo punto penso che manderemo anche un po' di musica per dare un po' di tregua alle orecchie degli ascoltatori, però siccome per una volta non ti abbiamo chiamato appunto nei 10 minuti finali, ma abbiamo ancora un po' di tempo davanti a noi, ti invitiamo a rimanere anche in linea mentre mandiamo un po' di musica, così continuiamo a sfruttare un po' la tua voce anche nei prossimi minuti di trasmissione. D'accordo. Un attimo allora. We'll be right back. allora, sulle note dei Buzzcocks, Ever Fallen in Love, ritorniamo in diretta, ritorniamo anche con il redattore telefonico, e visto che finora abbiamo parlato di PDL, cerchiamo di continuare a parlarne tenendo anche presente che oggi appunto è il 16 febbraio e ci troviamo proprio a qualche giorno dal trentennale dell'omicidio di Valerio Verbano, una vicenda che questa radio sta raccontando, stiamo raccontando le iniziative e tutto quanto si sta muovendo in questa città in vista del corteo di sabato e del grande concerto che avrà luogo poi appunto a seguire in quel di Piazza Sempione. Quello che pensavamo di dare noi come contributo di questa trasmissione a quelle che sono invece anche le tante altre trasmissioni, il ciclo di trasmissioni che sta andando avanti ogni sabato proprio appunto in ricordo di Valerio, quello che potevamo fare noi era non tanto fare diciamo un bilancio degli ultimi 30 anni di destra radicale, che sarebbe un'impresa piuttosto improba di questa città ovviamente, comunque andare a raccontare invece magari un pezzo di quella galassia, un pezzo che tra l'altro appunto lo stesso Valerio aveva incontrato e ci si era anche scontrato in prima persona, e che a distanza di 30 anni e poi si trova oggi invece integralmente o quasi riciclato, se non al governo, comunque tra gli interlocutori del governo di questa città. Noi di questo ne parleremo, allora ne continueremo a parlare con te, sempre che tu ancora ci senta e ancora sia in linea. Sì, io partirei, se mi senti, da un... Sì, sì, io ti sento, ok. Da un apparente paradosso, no? Oggi, perché diciamo in qualche modo parlare della vicenda di Valerio dopo aver finito insomma di parlare della campagna elettorale di Renata Polverini apparentemente può non aver senso, però diciamo può aver senso rispetto alla memoria lunga di questa città ragionare di che cosa è cambiato e che cosa non è cambiato in qualche modo, detto in modo molto, molto superficiale. Ecco, qualcosa sembra essere cambiato poco dal punto di vista della classe politica, o meglio, si è operato un... appunto quello che sembra una sorta di paradosso, un tragico paradosso, nella stagione in cui morì Valerio, in cui morirono molti altri compagni, una stagione indubbiamente di violenza e di scontro, non soltanto in questa città. E al Tribunale di Roma c'era un unico giudice che si chiamava Mario Amato, che indagava sulle versioni nera. Mario Amato sarà ammazzato nel giugno del 1980, qualche mese dopo Valerio. Si diceva che Amato avrebbe visto le carte del famoso dossier NAR, il dossier diciamo di foto e di appunti che Valerio e altri avevano raccolto sulla genesi dell'organizzazione diciamo denominata Nuclei Armati Rivoluzionari, che raccoglieva militanti tra Missini, membri di terza posizione e quant'altro. In quel momento il Tribunale di Roma doveva misurarsi con decine di attentati, centinaia di attentati, c'erano stati gli omicidi di Walter Rossi, di Roberto Scialabba solo negli anni precedenti, erano stati ammazzati poliziotti da questi gruppi neofascisti, eppure Mario Amato era da solo, lamentava questa sua solitudine e lamentava il fatto di essere isolato nel clima del Tribunale di Roma. Solo un elemento per capire: all'epoca nel Tribunale di Roma c'era una figura molto forte, che era quella di Giovanni Alibrandi, il padre di Alessandro Alibrandi, un fascista di Monteverde, che finirà proprio ucciso in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine, che sarà uno degli elementi di spicco proprio dei Nuclei Armati Rivoluzionari. Perché dico il paradosso? Il paradosso perché se pensiamo che la narrazione attuale diciamo della politica di destra quando viene inquisita è quella di raccontarci di una magistratura fatta da toghe rosse, beh insomma se torniamo soltanto un attimo a come è stata la genesi di alcune vicende in questo paese, capiamo che le cose sono state decisamente molto diverse, che i rapporti stretti tra la magistratura e il potere sono sempre andati in un'altra direzione. Questo però serviva solo da introdurre lo scenario di quella stagione. Perché credo che ci sia da da considerare un elemento, lo dico molto, in modo molto spiccio. Nella vicenda di Valerio non ci sono colpevoli, non ci sono, nessuno è stato condannato, le piste investigative sono state tutte abbandonate, quella morte non ha un nome, ma al di là delle vicende giudiziarie strette, al di là delle indagini, da questa rabbia non è certo la ricostruzione dei processi, diciamo la cosa che si fa con maggiore interesse, c'è un elemento politico. Vale a dire quello che una stagione di destra radicale, nella storia della destra radicale in questa città, ricordiamo il gruppo di fuoco dei nuclei armati rivoluzionari si forma a metà degli anni 70 tra due luoghi politici che sono la sezione della MSI di Monteverde e il FUAN, cioè l'organizzazione degli universitari missini di via Siena. Questi due luoghi vedono il passaggio sostanzialmente di buona parte del ceto politico che ritroveremo anche nei decenni successivi. Sono cresciuti lì tutti i leader di terza posizione, o quasi, sono cresciuti lì molti dei nomi della destra radicale degli anni successivi. Che cosa accade? Accade che quella stagione sembra improvvisamente tornata d'attualità perché all'interno di Alleanza Nazionale, a partire dalla seconda metà degli anni 80, o meglio dai primi anni 90, un decennio successivo, scontati, perché va detto, spesso condanne anche pesanti, scontata la latitanza e quant'altro, una serie di personaggi che avevano caratterizzato quel mondo riemergono all'ombra del nuovo partito post-fascista, l'MSI finiva nel 95, che è nato con il nome di Alleanza Nazionale. Ebbene, proprio la città di Roma diventa il laboratorio di questa ricollocazione di una parte del neofascismo all'interno di un quadro politico. C'è una figura di rilievo come quella di Peppe Di Mitri, che era stato condannato per le azioni dei NAR, che diventa, si dirà più tardi, c'è un libro che lo racconta, addirittura una delle figure di riferimento per Gianni Alemanno, al punto che quando Dimitri muore, per i suoi funerali all'Eur, che sono fatti ricostruendo una sorta di messa in scena celtico-vichinga, con una corte di militanti a formare una runa, vedono in prima fila proprio Gianni Alemanno. L'altro giorno su un giornale, sul Libero, c'era un'intervista, anzi ieri, a Marcello De Angelis, senatore della Repubblica, che è stato lungamente un capo di terza posizione ed è il direttore di area, la rivista, diciamo, teorica con cui la corrente di Alemanno ha acquistato in questi anni punti e posti dentro Alleanza Nazionale, prima il PDL poi. Cioè, in qualche modo a Roma oltre che, tra l'altro, lo stesso Alemanno, diciamo, la figura di Alemanno era un po' una figura di cerniera tra le frange più movimentiste dell'MSI e invece tutta quella galassia di terza posizione, no? Che poi che non era propriamente, almeno terza posizione, poi si è fatta la nomea di cui si è nutrita, e anche su quell'ambiguità tra gruppo che non era specificatamente armato, nonostante coltivasse poi tutta quel mito del guerriero e quant'altro, e poi invece alcune figure, come te ricordavi Dimitri, che era invece il capo militare e militava anche contemporaneamente in Avanguardia Nazionale, che poi era più nello specifico una delle formazioni un po' più tradizionali dell'estremismo di destra, insomma. Sì, diciamo che a noi manca un pezzo di storia che va dalla strage del 2 agosto del 1980, quella con cui anche giudiziariamente si mette fine all'esperienza di terza posizione e di denare di tutto quanto, nel senso che vengono inquisiti praticamente tutti i militanti di queste organizzazioni, e quindi si scompagina completamente, molti si rifugiano all'estero, altri finiranno in galera, eccetera eccetera. Tra quella stagione e l'inizio degli anni 90, quando piano piano a Roma, parlo la candidatura di Fini è del novembre del 1993, prende corpo di ipotesi di una nuova forza politica che sappia superare le rotture tra i gruppi del neofascismo e l'MSI della stagione di Almirante, quindi dei decenni precedenti, e che possa rimettere in gioco queste energie. Quello che si produce in quella stagione fa sì che negli anni 90 tornino fuori tutte queste figure che intorno al gruppo di Alemanno a Roma vedano emergere una serie di figure della destra radicale, in particolare della stagione di terza posizione. Pensa a De Angelis, pensa a Dimitri, penso a Enzo Piso, che è il responsabile del PDL oggi, non so se è deputato o senatore nel Lazio. c'è una serie di figure politiche che hanno avuto un passato molto pesante rispetto a quella storia e che vengono in qualche modo ricollocati all'interno della famiglia politica della destra nazionale da questa operazione, che via via li porterà fino alla attuale presenza dentro il PDL. Per dire un altro elemento, quando all'inizio degli anni 90 si comincia a parlare del fenomeno cosiddetto nazischin, emerge la figura, se così possiamo dire, insomma, di Maurizio Boccacci. Le cronache ci dicono che Maurizio Boccacci è un sindacalista della CISL al credito, cioè il sindacato dell'MSI è diventato in quegli anni una sorta di retrobottega dove mettere una serie di figure, Boccaccio giovanissimo veniva dall'Alleanza Nazionale, doveva mettere una serie di elementi che magari il partito non riusciva a collocare. La CISL da un lato e le associazioni ricreative o comunque diciamo le associazioni sociali, per esempio l'Associazione Sportiva Italiana che insieme al CONI gestisce molte iniziative, molta parte diciamo della, o una parte comunque interessante diciamo delle vicende sportive romane, deve riciclare in quota MSI, AN non c'era ancora, una serie di figure che vengono da quel passato dell'estrema destra violenta. Allora perché diciamo tutto questo? Diciamo tutto questo perché se c'è una cosa che quella stagione ci lascia in eredità, ci lascia l'eredità che nessuna delle figure diciamo emerse da quella stagione violenta, nessuna diciamo delle, non dico le persone nominate ma anche altre, visto che stiamo parlando di un ambiente che in qualche modo è stato preso e quasi interamente portato nuovamente dentro la politica, abbia mai pensato di dover dire qualcosa relativamente alla vicenda di Valerio. Ci sono molte altre vicende che non hanno colpevoli, ovviamente, però è curioso che proprio una stagione politica contrassegnata da quel tipo di violenza trovi una nuova legittimazione, perché questo accade quando qualcuno come dire, non ha problemi a mostrarsi con te o a riportare in auge una vicenda politica, attraverso la presenza di importanti testimoni di quella stagione politica nelle file del proprio partito, bene che nessuno abbia sentito il bisogno di dire qualcosa, di cercare di mettere una parola di verità. È chiaro che il pensiero in questo momento va non solo ai compagni di Valerio, ma a Carla Verbano, alla mamma insomma di Valerio, che sono 30 anni che aspetta e coraggiosamente cerca giustizia e verità. Ma insomma è curioso che appunto parlavamo di un paradosso iniziale, cioè che in qualche modo quella stagione politica, che è certamente lontana dal punto di vista delle pratiche, certamente non siamo a una vicenda di scontro violento di quel tipo, ha però una sorta di emergenza politica nel momento in cui vediamo che la cultura politica, terza posizione, sembra diventato il laboratorio politico di una parte del PDL, insomma cioè il partito del Presidente del Consiglio, a questo ruolo e questa attualità oggi nel febbraio del 2010. Sì, io ti ringrazio, penso che questo era il contributo anche più interessante che potevamo dare da questi microfoni, per non andare a ripetere quello che già qualcun altro sta facendo egregiamente da questa radio in questi giorni. Io, se non hai nient'altro da aggiungere, penso che ci possiamo anche salutare, visto che tra l'altro sono le 12.53 e questa volta il ruolo dell'ultimo di trasmissione tocca a qualcun altro, quindi per lasciare anche a lui un po' di spazio insomma. Perfetto, a martedì prossimo. Va bene, e anzi a questo punto probabilmente lo dico anche a te, lo ricordo anche agli ascoltatori, penso che ci vediamo anche sabato pomeriggio al corteo, no? Che partirà alle 16 da sotto la lapide di Valerio, insomma via Monte Bianco, il 20 quest'anno, quindi non il 22 come di consueto, in cui invece nella giornata del 22 ci sarà la consueta iniziativa Un Fiore per Valerio, anche quella alle 16 sotto la lapide, insomma. Va bene? D'accordo. Ciao. Un abbraccio, ciao. di corsa, un po' trafelati per l'orologio che segna ormai le 12.55. Torniamo in diretta, ma torniamo subito in collegamento telefonico con il nostro redattore del Nord-Est, occasionalmente in trasferta, anzi in realtà appena ritornato da una trasferta teutonica. Ci senti? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, tu sei appunto di ritorno da quello che è il più grande appuntamento della destra radicale tedesca. Ovviamente tu non eri andato per loro, insomma, ma appunto parliamo dell'annuale marcia che i neonazisti tedeschi fanno su Dresda per ricordare il bombardamento che rase al suolo appunto la città nella seconda guerra mondiale. Sì. Appunto, un appuntamento che ormai si è andato configurando come la più grossa marcia europea dei neonazisti, che in qualche modo quest'anno sembrava dovesse diventare in assoluto la più grossa marcia dal dopoguerra ad oggi. Io non so, a questo punto, siccome il tempo stringe, lascerei direttamente la parola a te per farci sia un report di quelle che sono state ovviamente le contromobilitazioni che quest'anno hanno effettivamente guastato un po' la festa ai neonazisti, ma anche, se fa in tempo, a raccontare brevemente un po' la genesi di questo appuntamento e perché quest'anno in qualche modo è stato anche una novità rispetto a quello che è tradizionalmente l'appuntamento di Dresda. Sì, allora diciamo che quest'anno appunto si attendevano nella città circa 9.000 neonazisti e doveva essere il definitivo, insomma, appuntamento per quello che è un po' una compagine che si ritrova in questa città tedesca da diversi anni, approfittando anche di questa ferita storica che è stata il bombardamento del 45. È un bombardamento che va, insomma, diciamo la destra radicale tedesca ha sempre sfruttato un po', ha definito provocatoriamente l'olocausto tedesco per poter anche avere un'agibilità che effettivamente in altri momenti e in altri luoghi non gli è così consentita anche dal punto di vista istituzionale. Quindi, insomma, per tornare un po' a quello che chiedevi adesso, cioè la genesi di questa manifestazione per i fascisti, era sempre organizzata da un comitato civico, che però era una maschera che assumevano i dirigenti dell'MPD locale. Va detto che la stessa regione di Lipsia di Dresda è una regione in cui l'MPD ha avuto dei notevoli anche successi elettorali e quindi, insomma, è una regione che mantengono bene da conto. E da anni, insomma, c'è questo appuntamento che è diventato internazionale, nel senso che, anche per fare un esempio, una delle organizzazioni neonaziste del nostro paese, come il Veneto Fronte Skinhead, se uno va a vedere la biografia online, cita il fatto che dal 2005 è la delegazione italiana più importante nella marcia di Dresda, quindi un appuntamento che, insomma, diventava anche quasi da curriculum per i fascisti europei. Devo dire la verità che anche negli anni, insomma, la risposta antifascista su questo appuntamento era sempre stata un po' debole. Da quest'anno si è sperimentato un metodo un po' nuovo, nel senso che si è voluto costruire un coordinamento antifascista per bloccare questa marcia molto largo, quindi oltre a, diciamo, gli autonomi, gli autonomen antifa, ci sono stati anche, insomma, diversi sindacati, diversi partiti come il Linkspartei, che è l'equivalente così di rifondazione per noi, anche sindacati di base o sindacati del pubblico impiego, che, insomma, si sono spesi molto, portando, insomma, diversa gente con una viabilità anche un po' complicata a Dresda e organizzando questi blocchi in 5 punti diversi della città. La cosa si era svolta principalmente in un quartiere, che è il quartiere di Neustadt, che anche era abbastanza complesso da gestire perché si tratta di un quartiere che era nell'Ansa del fiume Elba, quindi c'era un problema anche di controllare i ponti, di riuscire a muoversi agilmente anche nella città. Va detto che, insomma, poi la giornata è stata molto lunga e anche da un certo punto di vista fruttuosa, perché comunque i fascisti è stato impedito di fare il corteo. La mobilitazione antifascista ha dimezzato i numeri dei fascisti, che comunque erano molto alti, insomma, si parlava di 4.000-5.000 neonazi nella città. Ma comunque, insomma, è la metà di quello che ci aspettavano, e va detto anche che per la prima volta non hanno fatto effettivamente un corteo, ma si sono semplicemente spostati scortati dalla polizia da un punto all'altro di questo quartiere, e quindi effettivamente non hanno proprio fatto la loro manifestazione. Diciamo che dal punto di vista comunque delle mobilitazioni anche per il futuro, insomma, è stato un ottimo risultato anche per gli anni prossimi, perché effettivamente in un anno solo riuscire a bloccare completamente una marcia così anche radicata nell'ambito adesso radicale tedesca, ma anche che faceva appunto leva su questa ferita storica, era un po' complicato. Va detto comunque che anche la mobilitazione antifascista è riuscita, per esempio, per la prima volta a far schierare anche la politica con la P maiuscola. Il sindaco di Dresda, che è un conservatore, ha dovuto schierarsi contro la marcia fascista, per anni non aveva detto niente. Sì. No, in realtà io ho due domande anche molto rapide. Una, tu stai dicendo che appunto che si è schierato una parte della politica con la P maiuscola. Io quello che invece ero curioso di sapere erano anche le tue impressioni su se invece si è schierata e eventualmente da che parte la città, nel senso ti sembra che i nazisti in qualche modo riescano a farsi interpreti di quel sentimento di lutto, oppure sono visti comunque come un corpo estraneo? No, diciamo che, allora, la risposta è duplice, nel senso che questa volta c'è stata una grande partecipazione dei cittadini di Dresda alle mobilitazioni antifasciste, magari non nei blocchi più radicali ovviamente, ma magari in queste iniziative fatte dal comune che prevedevano, hanno una grande catena umana silenziosa, una fiaccolata, un palco con dei concerti, insomma, però la cittadinanza ha partecipato molto a questa cosa qui. Anni fa era stato abbastanza problematico, perché invece nel 2005 ricordo che era stato abbastanza così additato il problema, perché c'erano diversi cittadini che invece avevano partecipato alla parata dei neonazi, e proprio sull'onda un po' di quest'onda emotiva per il bombardamento, era appunto l'anniversario esatto, quindi quello era stato un dato un po' preoccupante, però va detto che questa volta io ho visto veramente comunque la popolazione, insomma, i cittadini non solo dare aiuto ai, faccia freddissimo, quindi insomma c'è anche un po' un problema proprio di potersi riscaldare eccetera eccetera, e in più anche partecipare attivamente, magari non alle cose più radicali, ma comunque alle mobilitazioni contro la marcia. Va detto che la polizia ha giocato un ruolo un po' ambiguo durante la giornata, questo ci teniamo a precisarlo, perché per la mattina comunque i gruppi di fascisti che arrivavano in città, che venivano quasi tutti da fuori, hanno avuto la polizia dice che non è riuscita a controllarli tutti, ma comunque insomma li ha un po' lasciati scorrazzare in giro, infatti ci sono state diverse aggressioni. È addirittura un centro giovanile è stato due volte attaccato, due pullman anche di due sindacati che venivano nei blocchi antifascisti del sud Germania sono stati attaccati con dei sassi, insomma una compagna è stata ferita anche gravemente in uno scontro, insomma la polizia ha sicuramente per la mattina ha lasciato un po' a briglia sciolta i fascisti che magari giravano a gruppettini di un pullman, due pullman, non so, 100 persone e un po' facevano quello che volevano, e mentre invece all'inizio della mattinata aveva da subito tentato di bloccare gli antifascisti tenendoli un po' distanti dai punti in cui avrebbero dovuto organizzare i presidi. Durante il pomeriggio invece c'è stato anche un livello di scontro un po' più alto con le forze dell'ordine, perché mentre invece la mattina erano un po' più riparate, e anche provocatoriamente la polizia tipo ha sgomberato due presidi con la forza e anche con l'uso degli idranti, che insomma era veramente una bastardata con meno 9 al termometro utilizzare l'acqua, gli idranti, insomma, contro i manifestanti. Senti, ma sono stati effettuati anche degli arresti, nel senso c'è non tantissimi, insomma, no, infatti era abbastanza chiaro, si vedeva che insomma la polizia usava molto i muscoli, ma non arrestava tanto come al solito in Germania. Perché la polizia stessa aveva detto di non riuscire troppo a controllare la situazione, tanto è vero che quando c'era stato il solito ricorso contro la marcia neofascista di Dresda le settimane fa, che poi era finito con il Tribunale federale che autorizza i fascisti a marciare, addirittura le due parti civili erano stati da una parte il comune, ed era, come dicevo prima, era la prima volta che questo avveniva. Dall'altra anche la cosiddetta, cioè, per capirci, la questura di Dresda, perché diceva che effettivamente non sarebbe riuscita a controllare la città e quindi chiedeva alla Corte federale, non per ragioni politiche ovviamente, ma per ragioni così di ordine tecniche, pubblico, certo. Sì, ma sì, più che altro di incapacità di effettivi, di numero sufficiente di persone, di agenti. Io ho visto addirittura delle scene per cui per passare il fiume li trasportavano con elicotteri, diciamo, i poliziotti antisommossa, quindi effettivamente era un po' complicato. Però insomma la polizia ha provato un po' a fare anche un po', diciamo, un po' gli ambigui su questo punto di vista, dicendo non riusciamo a controllarli. Per la mattina, insomma, ha fatto abbastanza scorazzare i fascisti, insomma, con anche risultati abbastanza nefasti, visto anche, insomma, le tante aggressioni o insomma quello che poteva succedere, insomma, a ogni angolo, che poi si trattava neanche di tutta la città ma di un quartiere abbastanza definito, come vi ho detto, chiuso anche dal fiume, quindi effettivamente non era poi così difficile incontrarsi. Va bene, senti, io nonostante tutto, appunto, penso che tu che ci sei andato e chiunque l'abbia letto si può in qualche modo ritenere anche soddisfatto del fatto, beh, certo, che appunto per la prima volta, come dicevi te, comunque gli è stata fatta zompare, insomma, e quindi guardiamo con speranza anche alle prossime mobilitazioni degli anni a venire. Io non so se tu hai qualcosa da aggiungere oppure lasciamo anche la linea al GR della radio, visto che dall'altra parte del vetro scalpitano. No, nulla da aggiungere, un saluto a tutti. Un saluto a te, ti ringraziamo e continuiamo a sentirci, insomma, magari la settimana prossima. A presto. Ciao, ciao. Chumbawamba, Enough is Enough, alle 13.07 fungono da sigla conclusiva di Maldestra. L'appuntamento come sempre è per martedì prossimo alle 12.15 circa, per riascoltare le passate trasmissioni e anche un po' di cosiddetti contenuti extra, cioè il blog maldestra.noblogs.org. Diamo spazio adesso al GR, ricordando per l'ultima volta il trentennale dell'omicidio di Valerio Verbano, ucciso dai fascisti sabato 20 febbraio 2010, corteo dalla lapide sotto appunto l'abitazione di Valerio alle ore 16 in via Montebianco. Un saluto a tutti e a tutti.